Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo dell'accordo arrivato, devo dire una buona notizia per i dipendenti pubblici, l'accordo sul pubblico impiego, che cosa cambia e come si inserisce anche nella riforma Madia dopo la bocciatura della Consulta, perché la Consulta ha detto non ha bocciato nel merito la riforma, ha detto però occorre che vi sia l'accordo di tutte le regioni italiane. Ancora parleremo chiaramente dei dati su disoccupazione giovanile, inattivi e quant'altro, però anche perché ad ottobre è calato di pochissimo l'indice sulla disoccupazione dall'11,7 all'11,6, è diminuito però anche il tasso di occupazione, è l'opposto di quanto visto a settembre. E quindi torneremo a spiegare la differenza tra disoccupazione e occupazione, come sia possibile che magari aumenti la disoccupazione ma aumenti anche l'occupazione, oppure come nel caso di oggi cali la disoccupazione ma cali anche il tasso di occupazione. È sceso in particolare tra i giovani fra i 15 e i 24 anni il tasso di disoccupazione, che resta altissimo, 36,4%, in calo dal 36,8% del mese precedente, e andremo nel dettaglio, ripeto, ogni anno, ogni volta, ogni mese dobbiamo specificare il doppio dato. Ancora il PIL italiano, ora qui siamo a una conferma del terzo trimestre, quindi più 0,3% rispetto al trimestre precedente, invece un miglioramento anno su anno, cioè il terzo trimestre di quest'anno rispetto al terzo trimestre del 2015 vede un PIL crescere dell'1% e non dello 0,9%. Questo in realtà ha un effetto soprattutto sulla cosiddetta crescita acquisita, cioè quanto sei cresciuto e quanto crescere come dato, anche immaginando che tu nei prossimi mesi, quindi nell'ultimo trimestre dell'anno, non cresca. La crescita ormai acquisita sale infatti allo 0,9%, questo a meno che non si noti un ultimo trimestre, quindi ottobre, novembre, dicembre, particolarmente brutto, dovrebbe permettere all'Italia di chiudere all'1% a questo punto, perché eravamo 0,8, adesso l'acquisita è 0,9, insomma veramente o abbiamo un ultimo trimestre deludente, molto deludente, o se no l'1% di crescita dovremmo farlo. Infatti oggi il Presidente del Consiglio Matteo Renzi scrive su Twitter: la crescita italiana raggiunge l'1%, poi dice se il paese si sblocca faremo di più. Chiaro che qui c'è la parte di campagna referendaria e anche di questo parleremo poi del mondo del tabacco, perché arrivano indicazioni interessanti sul futuro di un'industria che, piaccia o non piaccia, in Italia dà lavoro a 200.000 persone. Noi siamo il primo paese produttore di tabacco, che non vuol dire solo sigarette, vuol dire anche sigari, in Europa. Da soli valiamo un quinto dell'intera produzione di tabacco di tutta l'area europea, dell'Unione Europea, ma appunto interessante perché le due principali industrie del tabacco hanno fatto moltissimi investimenti in Italia in questi anni, anche sul fronte occupazionale. Dopodiché cercheremo di capire, anche alla luce delle dichiarazioni di ieri del numero uno della Philip Morris, che ha detto insomma nel futuro penso che andremo sempre più verso le forme elettroniche di sigarette. È un tema interessante dal punto di vista industriale, e poi, come dicevo, la riforma del pubblico, anzi subito la riforma del pubblico impiego, o meglio l'accordo raggiunto con i sindacati, come si inserisce nella riforma della pubblica amministrazione. La borsa, allora, oggi la seduta è più tranquilla, nel senso che l'indice guadagna lo 0,80% ed è comunque migliore di tutti gli altri indici europei. Parigi perde lo 0,50%, Francoforte l'1,20%, Londra meno 0,80% e il Dow Jones più 0,30%. Euro quota 1,06, va molto bene l'indice per due motivi, cioè, rispetto all'andamento delle altre borse europee. di nuovo perenni, e qui il petrolio, come era immaginabile dopo l'accordo di ieri che abbiamo ampiamente commentato, è tornato sopra i 50 dollari al barile, quindi tra ieri e oggi ha fatto quasi un 9% di rialzo, anche un 10%, e oggi ha guadagnato il 2,40%, l'Eni se ne avvantaggia con un rialzo del 3,60%, e sappiamo che l'Eni incide molto come peso sull'indice complessivo. Bene anche le banche, Biper Banca più 7,50%, UbiBanca più 3,80%, Generali più 3,60%, Pop Milano più 2,80%. Tra gli energetici, come ieri, non c'è solo Eni, c'è Tenaris, che è fornitore del settore, più 3,60%, Saipem più 2,70%. Tornando invece sui bancari, segnalo anche la Pop Milano più 2,70 come Mediobanca, il Banco Popolare più 2,5, UniCredit più 2,20 come Intesa San Paolo. Chi perde oggi? Beh, perde Snam il 3,60, come ricordati, il Monte dei Paschi perde il 3,50, quindi netta controtendenza rispetto al resto del mondo bancario. E poi ancora ST Microelectronics meno 2,50, Terna meno 2%. Parleremo anche, visto che citavo il Monte dei Paschi, di come funziona il mercato delle sofferenze, i cosiddetti non performing loans, NPL. Perché lo dico? Perché tanto, come abbiamo chiarito in tutti i modi, dal 5 di dicembre in poi, comunque vada al voto, dovremo tornare a occuparci delle cose di tutti i giorni, e quindi non solo della grande riforma che passi o non passi. E mi riferisco alle sofferenze bancarie. Qui ci sono gli aumenti di capitale che sono impellenti: Monte dei Paschi 5 miliardi, UniCredit almeno 10, abbiamo letto anche cifre molto più grandi. Ma resta il tema di come le banche possono riuscire a cedere le sofferenze, ossia i crediti che non riusciranno più ad avere indietro, a un prezzo che non porti a un deprezzamento delle banche o un forte deprezzamento delle banche. Il tema è molto semplice: se tu hai un credito, poniamo, di 1000 euro nei confronti del soggetto X che non te li ridarà più indietro, diventa una sofferenza. Ora tu in bilancio li hai già svalutati, di solito sono svalutati al 70-60%, anche meno. E quindi tu in bilancio hai già preso atto del fatto che quei 1000 euro sono diventati 600 euro. Il problema è che se chi si offre di comprare queste sofferenze ti offre 200 euro, e quindi i cosiddetti fondi avvoltoi in alcuni casi, tu se cedi queste sofferenze a 200 euro ti tocca poi svalutare ulteriormente quel valore da 600 a 200 euro e complessivamente abbattere poi quello che è il valore della banca, con il rischio di dover fare un nuovo aumento di capitale o comunque di avere dei criteri patrimoniali per cui l'Europa ti chiede un nuovo aumento di capitale. Se invece non accetti questa, diciamo, offerta così bassa, devi cercare un modo, il Fondo Atlante per esempio doveva essere questo strumento, per venderli a un prezzo il più vicino possibile a quello che tu ce li hai iscritti in bilancio. Quindi se sono 600 o 500 euro, intorno ai 400 euro. Queste sono le proporzioni tra quello a cui vorrebbero vendere le banche, intorno al 40% del valore, e quelle che sono le offerte dei fondi, che dicono te lo compriamo ma al 20% del valore, perché poi sperano di riuscire a recuperare qualcosa in più e con la differenza guadagnarci. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, io non sono contento che il petrolio schizzi a 50, a parte che l'abbiamo avuto a 80, 90, 100 dollari, non sono assolutamente contento, rispondo a alcuni ascoltatori, anzi ritengo che, a parte i titoli legati al petrolio, per noi questo, l'abbiamo detto ieri, l'abbiamo commentato questa mattina, siano due segnali, cioè l'aumento dei tassi americani e l'indebolimento dell'euro e l'aumento del petrolio, siano due segnali che questo periodo perfetto esternamente, tassi a zero che restano, quantitative easing, quindi 80 miliardi di aiuti ogni mese, petrolio basso ed euro comunque che stava calando, ecco, questo scenario complessivamente si stia modificando, bisognerebbe prendere anche atto. Allora, e quindi sto rispondendo al messaggio di Damiano da Roma che dice: così le tue azioni salgono, noi italiani paghiamo più gas e benzina. Guardi che io uso l'automobile e non ho azioni, quindi così. Allora, andiamo avanti con le notizie in breve per quello che riguarda le altre, il fronte internazionale. Allora, sul fronte internazionale, al di là del petrolio, oggi qualche reazione, c'è un indicatore PMI di in Cina nel mese di novembre, segna un leggero recupero e va ai massimi da luglio del 2014, è l'indicatore principale dell'attività manifatturiera in Cina, non solo in Cina, ma fotografa soprattutto l'andamento delle grandi imprese a controllo statale ed è superiore alla stima degli analisti. Interessante quanto emerge dagli Stati Uniti, che solo il 25%, questo è un sondaggio, ora dopo quello che è successo con Trump e la Clinton, forse i sondaggi li citerei con un po' d'attenzione, però è un sondaggio dell'organizzazione non di parte, Kaiser Family Foundation, non la conoscevo, che dice che solo un americano su quattro è favorevole alla completa abrogazione da parte del presidente Donald Trump dell'Obamacare, della riforma sanitaria, l'estensione della copertura sanitaria anche a chi non aveva diritto. Ancora, no, vedo un messaggio, guardi, lei ha buona memoria, io ho detto più volte che volevo il prezzo del petrolio con prezzi maggiori, ma si figuri se io dico una cavolata, io voglio il prezzo del petrolio, ma che me ne faccio, mica me lo bevo il petrolio, mica lo tengo in casa. Guardi che lei ha cattiva memoria, glielo assicuro. Noi commentiamo l'andamento, accordo OPEC, accordo no. A noi come Italia conviene che il prezzo del petrolio stia a 30, certo non conviene a Leni, non conviene a Tenaris, ho capito, ma se parli del sistema paese è chiaro che ci conviene non avere un'inflazione importata dall'aumento del prezzo del petrolio, ma non so. Allora, eccolo qua, un altro trombone, siamo stufi di sentire dati falsi, serial killer dell'informazione, vabbè. E mi dia lei i dati veri, così pubblichiamo i suoi, mi dia la sua Istat, il suo Ministero dell'Economia. Posso dire una cosa? Se c'è un risultato che questa campagna referendaria ha già ottenuto è quello di avvelenare qualunque clima. Io è tanti anni che conduco questo programma, è vero che ai tempi di Berlusconi gli ascoltatori si spaccavano in due, anche di Prodi, tra quelli che dicevano tutto giusto Berlusconi, tutto sbagliato Berlusconi, ma un clima così inquinato per cui non si riesce neanche a commentare, dato dell'Istat, che subito arrivano i webeti o i troll o quello che volete, ecco è un complotto, pure l'Istat è un complotto, Bilderberg, Pluto, giudaico massonico, ma basta film, i film si guardano al cinema e si paga pure il biglietto oppure gratis su una televisione, ma che è sta roba? Attenzione, questa massa di informazioni, non devo parlare male, di cavolate che circolano in rete e che vengono anche veicolate da alcuni partiti politici, così lo dico chiaramente, che non fanno mai un controllo sui fatti di quello che scrivono. Ho letto delle castronerie in questi giorni, che fra un po' partiamo anche una bella rubrica sulle cavolate della rete, così lo dico già in diretta, e faremo anche le cavolate della rete, no? Le panzane mondiali che leggiamo, che non vengono verificate da nessuno, però siccome le dice la rete hanno più senso loro dell'Istat. Ora l'Istat avrà mille difetti, ma almeno è un organismo ufficiale di certificazione statistica di questo paese che aderisce a Eurostat, con tutti i difetti che può avere l'Istat, ma porca miseria, qui siamo al bar, ai discorsi da bar elevati a fonte informativa, ma state al bar se dovete fare questi discorsi, almeno contribuite al PIL. Allora andiamo avanti con questo invece, la Gran Bretagna non esclude di pagare un accesso al mercato unico, cioè è pronto a valutare la possibilità di pagare all'Unione Europea contributi anche dopo la Brexit per mantenere l'accesso al mercato unico in favore di settori del business britannico. Lo ha detto il ministro per la Brexit, David Davis, che ha detto che l'obiettivo del governo britannico è quello di ottenere il migliore accesso possibile ai beni e servizi. 100.000 cittadini sono nel frattempo in coda, o meglio, stanno preparando le pratiche per evitare, sono cittadini dell'Unione Europea che abitano nel Regno Unito e vogliono evitare di non vedere più garantiti i loro diritti dopo la Brexit, lo scrive il Guardian, così citiamo anche la fonte. Brexit, record di immigrati dall'Unione Europea nei 12 mesi prima del referendum. A me fa impazzire questa cosa, però c'è sempre qualcuno che mi scrive: non ti preoccupare Barisoni, tra non molto è finita, il 5 cambia tutto. Ragazzi, è un referendum, ma che vincano i no e vincono i sì, non me ne frega niente. Purtroppo, sai qual è il vero problema? Che non cambia niente, nel senso che i problemi che dobbiamo affrontare come scarsa crescita economica li abbiamo anche il 5 mattina. Io sono in diretta al 4 sera con Annalita D'Ambrosio, poi alle 6 partono tutte le altre dirette, per cui se vuole ascolti anche la mia reazione, goda immaginando che io possa essere da una parte o dall'altra, sai che non me ne frega nulla, nel senso che i problemi che ha questo paese di giustizia civile, tassazione elevata per chi lavora o lavoro lo dà lo produce, burocrazia allucinante, inefficienza della pubblica amministrazione in alcuni casi, alta evasione fiscale e criminalità organizzata, restano anche il 5, ok? Ma anche quelli privati restano il 5, se lei non va d'accordo con sua moglie non ci andrà neanche il 5. Andiamo avanti, dai. Allora, il Parlamento dà l'ok al bilancio che diventa esecutivo. E poi invece una notizia che vorrei commentare, perché il nostro Sergio Nava ha appena raggiunto il direttore dell'unità imposta in diretta dalla Commissione Europea, riguarda l'IVA sugli ebook, cioè i libri, diciamo, che si leggono in digitale, perché i paesi europei saranno liberi, se lo vorranno, di tagliare l'IVA per gli ebook e le pubblicazioni digitali allo stesso livello dei libri e dei giornali cartacei. È una delle norme del pacchetto legislativo della Commissione Europea. Su questo appunto il nostro Sergio Nava ha raggiunto Donato Raponi, direttore unità imposta in diretta della Commissione Europea, che conferma una revisione anche importante del sistema di aliquote IVA per il prossimo anno. Abbiamo pensato che un libro che sia elettronico o un libro classico è uguale. Ma noi andiamo più lontano, perché quello che abbiamo proposto è e-publication, non significa solo i libri, anche le riviste, anche i giornali. Quello che proponiamo, gli Stati membri possono applicare al supporto elettronico la stessa aliquota che applicano al supporto cartaceo. Dunque la stessa qualità di trattamento, quello che fa l'Italia adesso, anche che infrazione con la legislazione comunitaria, ma adesso abbiamo dato ragione finalmente all'Italia dicendo no, bisogna trattare questi prodotti che sono uguali nello stesso modo. Nell'ambito più generale della rivista, quel che vogliamo fare l'anno prossimo è rivedere tutta la struttura delle aliquote in materia di IVA e dare più libertà agli Stati membri per fissare le aliquote IVA. Questo l'anno prossimo? L'anno prossimo, sì. Quindi ci sarà una grande revisione a livello europeo del sistema di IVA? Ecco, perché adesso abbiamo i vincoli comunitari, bisogna rispettare l'aliquota minima, bisogna rispettare l'aliquota standard, c'è una lista di prodotti che possono essere sottoposti a aliquota ridotte. Noi proponiamo agli Stati membri dicendo alla fine non ci sarà un problema di distorsione di concorrenza, dunque possiamo lasciare la libertà agli Stati membri. Allora, non vedo che l'ipotesi che è nata così un po', di avere una rubrica sulle balle del web in economia prende piede. Adesso la facciamo, magari la affianchiamo, non dico lo stesso giorno, in un altro giorno la affianchiamo alla nostra poco invidiabile classifica che domani torna. Sì, della raffineria di San Nazaro i nostri giornalisti stanno contattando l'ENI, ci stiamo cercando di capire che cosa stia creando questa nuvola di fumo che si vede in provincia di Pavia. Non sappiamo, lo dico all'ultima notizia che avevo prima di entrare in studio, non sappiamo se sia una raffineria, attenzione, o se sia un database, stiamo cercando di capirlo, appena avremo notizie ve lo daremo in tempo reale, appunto notizie. Non bufale. Allora, andiamo sul primo tema e mi riferisco oggi, poi parleremo di disoccupazione e occupazione, alle banche, alle sofferenze bancarie. Una delle cose che non cambierà dal 5 dicembre, anzi, sarà l'ammontare di sofferenze che le nostre banche devono riuscire a collocare prima o poi a un prezzo per loro vantaggioso e anche per noi vantaggioso, perché è chiaro che se poi vanno giù i titoli bancari i correntisti forse tanto bene non stanno, ma anche da questo punto di vista il 286 miliardi di euro in crediti deteriorati, praticamente noi abbiamo in pancia nel nostro sistema bancario un terzo di tutti i crediti deteriorati dell'area europea. Allora è chiaro che se tu metti assieme un terzo di tutte le sofferenze e il più grande debito dell'Unione Europea, non è che ti presenti benissimo. Allora, l'offerta dei fondi è intorno al 20% del valore nominale, le banche vorrebbero arrivare almeno al 40%. La distanza, che è alta, l'ho spiegato prima, funzionamento tra domanda e offerta rallenta molto la possibilità del mercato, cioè di trovare un punto di caduta. Ci sono vari provvedimenti varati dal governo, con le garanzie pubbliche su alcune tranche di cartolarizzazioni o il fondo Atlante, in cui la dotazione deve essere anche ampliata. Chiedo però, ne vorrei parlare con Alessandro Scorsone, che è direttore di un gruppo che di lavoro fa questo, cioè si occupa della cartolarizzazione, come si dice in gergo, degli NPL. Buonasera. Buonasera. Allora, Scorsone, tra il 40 e il 20%, tra il 40 che vorrebbero mantenere le banche, il 20%, facciamo così, la risposta me la dia dopo il meteo e la pubblicità. Dov'è che si potrebbe arrivare a un punto di caduta? Perché io vorrei parlare anche del dopo 5 dicembre, cioè se continuiamo ad avere le banche che puntano a mantenere il valore reale di quello che riescono a incassare intorno al 40% per non deprimere i bilanci, e i fondi che chiedono il 20%, a mio avviso la distanza resta siderale, e soprattutto restano lì appesi i 280 miliardi di sofferenze. 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, nel frattempo sì, dovrebbe essere il nuovo impianto della raffineria di San Nazaro de Burgondi, provincia di Pavia. La nostra Laura Bettini sta andando lì, lo dico senza polemica. Vedete alcuni di questi webity che scrivono, il giornalista prende e va lì, vede e racconta, non si limita a raccontare cavolate raccolte sulla rete e non verificate, così come io quando vado in un ospedale non insegno al medico come fare il medico, tema di attualità, o vado da un avvocato, vado da un notaio, o vado dall'alimentarista, non gli spiego come si fa a conservare gli alimenti, no, perché ne avrei anche le scatole piene. Qua c'è gente, il tuo problema Barisoni è lo stesso di Renzi, ormai siete distaccati dalla realtà. Guardi, io non so che problemi abbia Renzi, mi sembra che ne abbia più di uno, anzi, onestamente, ma io, oltre che fare la spesa, vivere come lei e magari, non so, occuparmi anche delle pulizie della casa, giro anche l'Italia perché vengo chiamato a intervenire e con le categorie del mondo dell'agricoltura, del commercio, degli artigiani. Vada sulla rete e controlli, tanto può controllare tutto, no? E quindi io capisco che lei dice dovresti venire a Prato a vedere cosa sta succedendo, ma non è che Prato sia l'Italia, ci sono situazioni peggiori di Prato in giro, ci sono situazioni migliori di Prato. Che questo paese sia ancora dei 10 punti percentuali sotto i livelli del 2008 e il potere d'acquisto e la produzione industriale sia un 18% in meno, il potere d'acquisto nel 2023 tornerà a essere quello del 2008, lo ripetiamo da anni, ok? Però basta. Manda. Sanno tutto loro. Allora, Scorsone, dunque, voi avete acquistato in Italia 4 portafogli di crediti finanziari, di non performing, di sofferenze bancarie, per un valore complessivo di 1 miliardo e 500 milioni di euro. Li avete comprati da UBI, da Monte dei Paschi di Siena, da Unicredit e da Locam. Esatto. A che livello, e andando, diciamo, a un ragionamento più esteso, qual è il punto di caduta tra quello che vuole il mondo bancario e quello che offrono i fondi, soprattutto avvoltoi? Ma nel nostro caso il punto di caduta è un accordo che abbiamo stretto con degli importanti istituti finanziari, quindi significa che il punto di caduta era positivo e che il prezzo che noi abbiamo offerto è stato considerato un prezzo profittevole da entrambe le parti e in grado di costruire un business che abbia un senso per entrambi, sia per il seller che per il buyer. Quindi riteniamo di avere implementato dei modelli di valutazione, di pricing di questi portafogli che abbiano avuto l'effetto di rendere il match tra la domanda e l'offerta assolutamente positivo. Tornando alla sua domanda di prima, il tema di come andare a coprire il gap tra bid e ask è un tema assolutamente attuale ed era il centro dell'ultimo International NPL event che c'è stato a settembre a Venezia, quindi assolutamente un tema vero quello che lei stava sottolineando. Resta il fatto che gli elementi che possono concorrere a ridurre questa differenza sono più di uno e dal nostro punto di osservazione io faccio parte di un gruppo che si chiama CRUC ed è presente su 7 paesi europei, quindi abbiamo un'esperienza diversificata su mercati di Europa centrale ed Europa occidentale, quindi in questo momento siamo in Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, in Germania, in Spagna ed Italia. Ed in tutti questi paesi stiamo sperimentando il fatto che quando le banche e o gli originator in genere sono in grado di mettere... Gli originator chi sono? Mi scusi, che conoscevo Terminator ci arrivavo, però originator ancora no. Gli originator potete sono in finanza parlare come noi comuni mortali, per okay, favore, lo dico da 16 anni, grazie. Colgo la sfida. Per originator noi chiamiamo tutti quelli che sono in possesso, che hanno la proprietà di questi portafogli, quindi le banche, le società di consumer finance, tutti quelli che prestano denaro e che poi si trovano a rivenderlo successivamente perché questi crediti non sono più performanti. Ecco, performanti. No, ma guardi che l'italiano è una bellissima lingua. Senta, una cosa però, sì. Mi dice il livello, se me lo può dire, insomma, non voglio entrare nel dettaglio, qui UBI, Monte dei Paschi, ve li hanno ceduti, e Unicredit. Però insomma, qual è il livello ragionevole? Io lì voglio, perché insomma il tema è eminentemente di bilancio bancario. Se le banche italiane li hanno in valore a 40 e lei mi dice che si potrebbe arrivare a 35, a 30, vuol dire svalutare le sofferenze che ha in pancia di solo un 10%, o meglio di un valore che non è 10%, perché ma di un 10% in meno. Se invece da 40 scendi a 20, dimezzi il valore a quelle che hai in portafoglio. Ora, immaginando che una banca abbia miliardi di sofferenze in pancia, lei capisce bene che se io devo ridurre questo valore della metà, tocca fare un aumento di capitale o comunque rischio di uscire dai criteri richiesti dall'Unione Europea. Assolutamente sì, ed è per questo che delle principali istituzioni bancarie italiane si stanno muovendo nell'ordine di implementare degli aumenti di capitale significativi. Parte degli aumenti di capitale saranno finalizzati proprio ad aumentare Ma il livello a quanto potrebbe essere secondo lei? Ma qui dipende molto dal tipo di prodotto di cui stiamo parlando. Nel nostro caso il nostro punto di osservazione è sul mondo dei crediti individuali e quindi è molto difficile fare una valutazione spannometrica su tutto lo stock dell'NPL, del non performing quindi. Per fare una valutazione complessiva bisognerebbe iniziare ad avere delle operazioni che mettono dentro più prodotti finanziari. Quindi per farle un esempio, l'operazione che sta partendo, che con ogni probabilità auspicabilmente partirà con Monte dei Paschi, è un'operazione che vede dentro tutte le asset class più significative e quindi dai crediti individuali fino ai crediti garantiti da mutui. Quindi in quel caso lì sarà possibile avere un benchmark, solo in quel momento lì potremo avere un benchmark e capire. Ma secondo lei, adesso mettiamola così, io la invito a cena stasera, è una battuta chiaramente perché non posso, però non posso, ho già degli impegni, però io la invito a cena stasera e siamo assieme a degli amici. La prendo come una promessa per il futuro. Prendo come una promessa, se paga lei è sicuramente una promessa. Allora, la invito a cena, ci sono amici e amiche, lei mi deve spiegare questo, a quanto secondo lei, come sua previsione, intanto non è mica, a quanto secondo lei in media potranno cedere le banche italiane, non fatti salvi casi estremi, ho capito anch'io che ci sono diversi tipi di sofferenze, se questi soldi te li deve uno che è completamente fallito, non ha speranza, è una cosa, se te li deve un altro che ha ancora degli asset, come dite voi, cioè dei beni su cui intervenire, è un'altra. Ma secondo lei, alla fine di questo percorso, andremo più verso il 20, cioè il dimezzamento della quota in pancia alle banche, o più verso il 40, quindi con meno svalutazioni bancarie? Io credo che con le opportune misure da un punto di vista sia del sistema che dal punto di vista del sistema bancario, quindi sia dal punto di vista del regolamentatore e delle operazioni sistemiche, si veda Atlante per esempio, sia dal punto di vista del sistema bancario nella capacità di digitalizzare le informazioni e di fornire serie storiche approfondite sui dati, si possa raggiungere l'obiettivo, si possa raggiungere la parte alta della forchetta. Questo però nel momento in cui inizieranno a prendere piede, a realizzarsi delle operazioni significative e inizieremo ad avere dei benchmark di questo tipo. Fino a che questo non avverrà e staremo un po' tutti alla finestra. E balleremo. Lei cosa si aspetta per concludere dopo il 5? Lo dico perché dopo il 5 a questo punto, in ogni caso, le banche che hanno rimandato gli aumenti di capitale e in alcuni casi anche le cessioni di sofferenze, non è che possono aspettare molto ancora. Si aspetta che arriverà un eccesso di offerta sul mercato e quindi poi i prezzi andranno verso il 20% del valore nominale? Ma questo dipende da tutta una serie di fattori. Noi sappiamo benissimo, è inutile nascondercelo, che domenica succede una cosa importante in Italia. E quindi l'esito di quello che succede domenica in Italia probabilmente avrà degli effetti significativi anche sulle operazioni di aumento di capitale delle principali istituti finanziari che in questo momento stanno ragionando sul mercato e stanno facendo. Quindi speriamo che il popolo italiano sia un popolo ragionevole. No, così non ce la posso. Succeda. Ma oggi che cosa ho fatto di male io nella vita? Voglio sapere se secondo lei, lasciamo stare che si vince il sì o si vince il no, voglio sapere come opinione personale, resti ancora nella mia cena, secondo lei ci sarà il rischio di un eccesso di offerte di sofferenze bancarie dopo il 5, oppure invece ci sono ancora dei margini per farle e dare alle banche anche la possibilità di trattare sul prezzo? Sì, io non credo in uno scenario catastrofista, io sono convinto che il sistema saprà reagire in modo positivo e che questo mercato diventerà sempre più un mercato competitivo e liquido. Oh, grazie Scorsone, poi la cena, adesso possiamo fare anche la romana, non deve per forza pagare. Va bene, io sono mezzo romano, quindi va benissimo. E allora mezza la paga lei. Grazie Alessandro Scorsone, direttore Strategic Transaction del gruppo Krug. È un mondo difficile e vita intensa. Mamma mia, ma che è oggi? Il cigno nero. Felicità, momenti e futuro incerto. The Three Witches, come direbbero quelli della finanza. Le tre streghe. Allora, andiamo avanti. B per banca più 8%, Tenaris più 4,11, Ubi Banca più 3,80, Eni più 3,50, Generali più 3,5, Pop Milano più 3,30, Mediobanca più 3,15. Per cento, Banco Popolare più 3% come Saipem e Unicredit. Questi motivi per cui Milano guadagna l'1%, mentre Parigi meno 0,40%, Francoforte meno 1%, Londra meno 0,50%. Felicità, momenti e futuro incerto. Vabbè, su questo. Allora, Monte dei Paschi meno 3,70%, Snam meno 3,50%, come ricordati. Il 2,5% perde STMicroelectronics, il 2% Campari, Terna meno 1,80% come A2A, Italgas meno 1%, il commento dopo il traffico 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presento Focus Economia. ...17.51 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, commentiamo la borsa oggi e lo facciamo come sempre con Radio Corriere sulle 24 ore. Giornata positiva per Eni e titoli legati al petrolio. Petrolio tornato sopra i $50 al barile, ma anche, come ricordavo, per alcuni bancari. L'onore Michele, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Oh, di Eni e Tenaris e... Snam, ma soprattutto Saipem, abbiamo detto già tutto. ieri, tutto e di più, e quindi oggi faremo una replica. Invece la Biper c'è notizia, ci sono ipotesi più che notizia. Assolutamente sì, Biper è stato il miglior titolo sin dalle prime battute di questa mattina del FTSE MIB, ha chiuso con un progresso dell'8% e praticamente in questo caso a spingere in alto le quotazioni della banca è stata l'ipotesi che si possa fondere con il Creval. Soprattutto dopo che ieri il direttore generale dello stesso Creval ha ammesso che cioè l'operazione potrebbe essere presa in considerazione dallo stesso istituto, anche se poi ha puntualizzato che di fatto non ci sono trattative sul tavolo. Da lì comunque è partita una girandola di ipotesi secondo le quali nel 2017 potrebbe partire ovviamente una nuova ondata di consolidamenti tra le popolari che vedrebbero Biper protagonista, e se non con il Creval si dice che la stessa Biper possa presentare un'offerta anche per Cari Ferrara. Insomma, secondo il mercato qualcosa a breve potrebbe succedere. Allora, tra l'altro sappiamo che la Biper, della Biper molto si era detto di un interessamento verso la parte della Valtellina, credito valtellinese sarebbe per Creval, credito valtellinese, e l'altra grande banca della Valtellina che è la Popolare di Sondrio. Si vedevano infatti più sinergie tra questa operazione, cito le analisi degli ultimi mesi, che non tra un'operazione di fusione tra Popolare di Sondrio e credito valtellinese che avrebbe avuto troppe sovrapposizioni. Chiuso questo, andiamo avanti con altri temi, perché il Monte dei Paschi invece fa eccezione in una giornata molto positiva per le banche, perde il 3,70%. Qui continua a pesare ovviamente il dubbio sul fatto che l'operazione di rilancio e salvataggio della banca vada effettivamente in porto. Il Sole 24 Ore quest'oggi ha scritto di trattative serrate con il fondo del Qatar, che sarebbe uno dei grandi investitori disposti a entrare nel capitale della banca, però alla fine probabilmente anche il fondo del Qatar si riserverà di decidere dopo l'esito del referendum. Intanto domani è un appuntamento cruciale perché termina l'offerta della trasformazione delle obbligazioni subordinate in azioni, quindi poi ci saranno i primi risultati che andranno a determinare anche l'entità del successivo aumento di capitale. Ancora tra i migliori e i peggiori, perché andiamo verso il GR24 anche con gli aggiornamenti dall'esplosione della raffineria dell'Eni, ci sarà lì a Sannazzaro, in provincia di Sannazzaro de Burgondo, in provincia di Pavia, è una delle più grandi d'Italia, lo dico perché stanno arrivando anche le agenzie, la nostra Laura Bettini si sta lì recando. Sarebbero esclusi feriti nell'esplosione, l'incidente è avvenuto alle 15:40 nella zona denominata Cantiere Est 2, tra l'altro in una parte dell'impianto di recente realizzazione. Si è generata una palla di fuoco alta decine di metri e il vasto incendio è in corso, ma una seconda agenzia di poco fa conferma che non vi sarebbe nessun ferito, si stanno valutando i danni ambientali, speremmo. Dicevo, i migliori e peggiori: Heidelberg Cement più 15%, Landi Renzo più 15%, Italia Independent, oh, all'Apo sta cosa gli fa bene, da ieri che recupera, gli fa bene sulla borsa, ci mancherebbe. Più 12%, Gala più 11%, primi sui motori più 9,30%, fronte opposto Meridian meno 29%, Energy Lab meno 9,60%, Gambero Rosso meno 8,20%, e basta, Vita, società editoriale meno 7,80%. Grazie anche a Leonora Micheli, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Dopo il GR24 parliamo dei dati su occupazione e disoccupazione, e anche quelli che riguardano il nostro PIL e l'accordo sul pubblico impiego. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Giustamente non abbiamo dato, mi fate notare che non abbiamo dato il credito valtellinese, visto che Biper sull'ipotesi di una fusione col credito valtellinese è salita tantissimo oggi, l'8%, anche il credito valtellinese ha fatto più 6% a 30 centesimi di euro per azione. Andiamo all'accordo firmato ieri in serata, accordo per il rinnovo dei contratti di dipendenti pubblici sottoscritto da tutte le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, assieme al ministro della funzione pubblica Marianna Madia. Superato il nodo degli incroci tra gli aumenti e il bonus fiscale degli 80 euro che riguarda 800.000 lavoratori pubblici, di cui 250.000 sono nella scuola, non farà perdere beneficio nella contrattazione di secondo livello nei singoli comparti, quella che riguarda i singoli comparti, non farà perdere il beneficio di 80 euro ai lavoratori che attualmente lo percepiscono. Il governo si è impegnato nel triennio 2016-2018 a stanziare complessivamente 5 miliardi di euro per i rinnovi contrattuali. Gli aumenti salariali saranno non inferiori a 85 euro mensili, quindi poi la contrattazione di secondo livello, quella sui singoli comparti del pubblico impiego, andrà a definire gli incrementi retributivi, ma quello è il tetto sotto il quale non si va. Tra l'altro ricordo che i contratti del pubblico impiego sono fermi dal 2009. La scorsa legge di stabilità aveva stanziato 300 milioni, definiti però insufficienti dai sindacati. Ricordo anche che il 24 giugno è arrivata la sentenza della Consulta che ha detto: attenzione, non potete proseguire con il blocco del pubblico, dei rinnovi del pubblico impiego, perché è illegittimo. Poi però parleremo anche di un'altra sentenza della Consulta, quella di venerdì, che boccia la riforma Madia e ha rischiato di rendere più complessa la trattativa. Trattativa che si è chiusa, e allora ascoltiamo subito la reazione di ieri in serata di Susanna Camusso, leader della CGIL, e di Anna Maria Furlan, leader della CISL. Cose fondamentali immediate sono quelle che c'è un impegno esplicito a prorogare i contratti dei lavoratori precari che sono in atto nelle pubbliche amministrazioni, e un impegno poi nel testo unico a superare le forme di precariato esistenti nella pubblica amministrazione. La seconda cosa rilevante è che si cambia finalmente la legge Brunetta, ma anche la legge 107, cioè la buona scuola, in quelle parti che avevano sottratto la libertà alla contrattazione e alla definizione dei rapporti di lavoro. Terzo elemento, riconsegnando alla contrattazione la possibilità di definire, si parte dal fatto che sono 85 euro che saranno la base di riferimento, che si lavora sulle scale parametrali al fine di dare maggiori risultati a chi ha redditi più deboli, ha sofferto di più la crisi, e che si fa una scelta sul welfare contrattuale, che è una scelta di integrazione e implementazione dei servizi pubblici, quindi non forme di privatizzazione, ma forme che riguardano la sanità e la previdenza in particolare, che servono ulteriormente a qualificare i pubblici servizi. Bellissima giornata per un po' di milioni di lavoratori e di lavoratrici che da 7 anni non vedevano la luce del loro contratto. Oggi riparte finalmente la contrattazione nel settore pubblico, e attraverso la contrattazione, soprattutto quella di secondo livello, aumenteremo qualità del lavoro e qualità del servizio per tutti i cittadini e tutte le cittadine. Una grande alleanza tra chi lavora nella pubblica amministrazione e le comunità, in modo particolare le comunità locali. L'abbiamo fatto grazie a un grande impegno di lavoro serio che in questi mesi ha caratterizzato il rapporto tra la ministra Madia, il governo e CGIL, CISL e UIL, e finalmente abbiamo portato a casa un gran bel risultato. Allora, così Susanna Camusso e Anna Maria Furlan. Per inciso, adesso voglio vedere se qualcuno, visto che la Camusso ha detto che il governo ha fatto un buon lavoro, plaude al ministro Madia, voglio vedere se qualcuno adesso scrive che la Camusso è fiorenziana, solo per aver detto che questo contratto obiettivamente è stato un buon risultato. Vediamo se qualcuno scriverà che anche la Camusso è fiorenziana. Intanto Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Gianni, noi ci siamo concentrati molto sugli 85 euro, chiaramente, come aumento minimo. In realtà cambiano anche altre cose: premi sulle presenze, spinta sulla produttività, e anche nelle relazioni sindacali viene privilegiata la fonte contrattuale in tutti i settori. Gianni. Sì, allora, il premio sulle presenze ha creato un po' di polemica che va sgomberata almeno nelle intenzioni. L'idea è questa: c'è un tasso di assenteismo medio nel pubblico impiego che è più alto di quello del settore privato, e che nasce da una serie di anomalie che anche le ultime regole non sono riuscite a contrastare efficacemente. L'idea è fissare degli obiettivi alle amministrazioni e permettere alle amministrazioni che le raggiungono di avere un po' più di flessibilità nelle regole del fondo accessorio. Il fondo accessorio è quello che finanzia la contrattazione di secondo livello, quindi è un premio alle amministrazioni che riescono a garantire maggiori tassi di presenza del loro personale, non è un premio individuale legato al fatto che tu ti presenti al posto di lavoro, che è peraltro illegittimo, no, perché siccome nella PA abbiamo visto anche questo, e anche in grandi comuni e anche nella capitale, cioè contratti decentrati che fissavano indennità aggiuntive per il fatto che tu avevi la buona grazia. Beh, come certi premi dati ai dirigenti per aver fatto il loro lavoro, ne stiamo raccontando da anni nella classifica che avremo anche domani. Per cui esatto, la obiettivi... Corte dei Conti li ha già bocciati, insomma, e quindi non è una riproposizione di quella roba lì. Esatto. No, beh, è vero, purtroppo non è una battuta, perché abbiamo letto anche quello, sapere trasferire sul computer. Ma vabbè. Comunque, la cosa che però io non ho capito è come questo si potesse intersecare o possa ancora intersecarsi con la bocciatura della consulta alla riforma Madia, che chiarisco, non è una bocciatura sui contenuti della riforma Madia, quella che a partire dai dirigenti, quindi dalle posizioni apicali, va a rendere il dirigente temporaneo 4 anni, se ha qualcosa da dirigere, se non è più dirigente e non fisso, ma era una bocciatura sul processo, e cioè dice la Corte Costituzionale tu non puoi cambiare quelle che sono i compiti delle regioni senza che tutte le regioni siano d'accordo, e lì c'era un ricorso della Regione Veneto. Ma a questo punto mi sembra però che i due binari, diciamo, non vadano più a incrociarsi, no? Allora, si intrecciano in un senso solo. L'accordo prevede la parte economica, che è quella che hai detto tu, gli 85 euro, gli integrativi, bla bla bla, e una parte normativa, cioè una rivisitazione delle regole per sostanzialmente riportare dalla legge ai contratti una serie di discipline su, appunto, valorizzazione della produttività, del merito, obiettivi e così via. Per fare questa parte normativa serve il testo unico del pubblico impiego, che è un decreto attuativo della Madia, ma che non è stato colpito dalla sentenza della Corte Costituzionale, perché è un decreto ancora da emanare, va emanato entro febbraio. Cosa cambia la sentenza? La sentenza dice che nella emanazione di questo decreto legislativo tu dovrai andare in tuo governo, dovrai andare in conferenza Stato-Regioni unificata e cercare l'intesa, cioè l'intesa si ha quando tutte le regioni sono d'accordo, ma non l'unanimità. Ora, l'intesa prevede, ma non, scusami, il parere, l'intesa prevede l'unanimità, ma si può superare, nel senso che poi le regole ordinarie prevedono che se in 30 giorni l'intesa non c'è, il governo possa comunque andare avanti. Andare. Secondo un percorso perfettamente costituzionale non c'è problema. Allunga un po' i termini, aumenta le possibilità di interposizione di qualche regione, ma per i decreti ancora da emanare come questo non li blocca. Allora, mi chiede giustamente un ascoltatore, questo che non è un contratto, è un accordo, hanno ragione a dire, visto che poi deve essere implementato come tu ricordavi, però vale per tutto pubblico impiego, anche quello su base locale? Sì, vale anche per i enti locali, insomma, regioni, enti locali, sì, e sanità, che poi sono a carico del fondo sanitario, ma sono dipendenti regionali. Okay. Vale anche per loro, perché sarà tradotto nell'atto di indirizzo, cioè nelle linee guida che il ministero darà per la firma del contratto nel comparto di regioni e enti locali. Allora, grazie a Gianni Trovati, andiamo sul traffico e poi ci occupiamo dei dati, non tanto sul PIL, che comunque è un miglioramento, l'ultima revisione del PIL, ma anche e soprattutto su disoccupazione e occupazione. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presento Focus Economia. Allora, dicevamo, dati di oggi sul PIL, revisione del PIL italiano, che revisione positiva per fortuna del PIL italiano, perché l'ultima lettura dell'Istat segnala un terzo trimestre dove il rialzo anno su anno è stato dell'1% rispetto al terzo trimestre 2015 e non dello 0,9%. La cosa più importante però è che il cosiddetto PIL acquisito, cioè la crescita che abbiamo già fatto anche se nell'ultimo trimestre crescessimo pari a zero, è dello 0,9%, il che dovrebbe portare a dire che comunque quest'anno faremo l'1%, a meno che uno immagini che veramente il quarto trimestre è veramente a zero. Per cui ci si avvicina all'1%, che è un po' meglio delle previsioni di qualche mese fa, va detto, che erano più verso lo 0,8-0,7%. Okay? E poi il dato dell'Istat sugli occupati e disoccupati, che può essere così sintetizzato: cala leggermente la disoccupazione a ottobre, dall'11,7 all'11,6, ma cala anche il tasso di occupazione al 57,2. Per i giovani la disoccupazione tra i 15 e i 24 anni cala di 0,4 punti al 36,4, è il valore più basso, pur essendo un valore altissimo al 36,4% di disoccupazione giovanile, è il valore più basso dall'ottobre del 2012. Questo però perché sono tornati a salire gli inattivi, cioè quelli che escono dalla disoccupazione perché non lo cercano nemmeno un lavoro. E qui introduciamo per la 20ª volta il tema di occupazione e disoccupazione. I disoccupati sono tutti quelli che non hanno un lavoro tra chi lo cerca, gli occupati invece sono quelli che lavorano, fatto 100 il numero di chi potrebbe lavorare. Non è la stessa cosa, perché se tu appunto sei un inattivo e non ti metti neanche nelle liste di disoccupazione, te ne stai a casa, non cerchi nemmeno un lavoro, non vieni conteggiato come disoccupato, ma non risulti occupato. Non so se la cosa oggi è più chiara di altre volte. Allora, professor Carlo Della Ringa, economista del lavoro, deputato del PD, ex sottosegretario del lavoro, buonasera. Buonasera a tutti. Noi la usiamo come direbbe l'ospite di prima, come benchmark, come riferimento, perché le riconosciamo un'onestà intellettuale al di là del partito a cui lei appartiene, non che non sia un partito onesto intellettualmente, ma diciamo al di là del fatto che lei appartenga a un partito, per essere più corretti. Senta, a me non sembra bellissimo sto dato, così come il mese scorso commentavamo una disoccupazione che leggermente aumentava, ma aumentava anche l'occupazione, perché c'era più gente che andava a cercare lavoro. Oggi io vedo che la disoccupazione un po' cala, il problema è che cala anche l'occupazione e aumentano gli inattivi. Da quello che capisco io, cala la disoccupazione perché meno persone stanno cercando lavoro. È così, sì, in effetti. Io consiglio sempre, quando si tratta di dare un giudizio sommario, insomma, sintetico di questi dati, per non perdersi in tutte queste distinzioni che peraltro sono importanti, di guardare all'occupazione. Guardiamo all'occupazione, dice lei. I posti di lavoro che si creano. Ecco, da questo punto di vista c'è da mesi c'è una sorta di assestamento dell'occupazione con leggera diminuzione. Ecco, questo è, diciamo così, la tendenza degli ultimi mesi, del breve medio periodo. Dopo il grosso aumento di occupazione che c'è stato nel corso della fine dell'anno scorso, c'è stato un progressivo assestamento con una leggera diminuzione che da un lato riflette una congiuntura che, nonostante le buone notizie di oggi sul PIL, però possiamo dire che è altalenante, cioè c'è una buona notizia dopo una notizia non molto buona del secondo trimestre, e vedremo il quarto cosa farà. In questa circostanza le imprese certamente non sono incentivate a fare grandi assunzioni. Il secondo motivo è che sappiamo gli incentivi fiscali ad assumere, con contratto a tempo indeterminato, in ogni caso ad assumere, sono ridotti rispetto all'anno scorso. E quindi le imprese, naturalmente, dopo aver fatto il pieno, adesso riflettono un po'. Sì, a me spaventa il dato sulla disoccupazione giovanile, perché proprio per un effetto statistico, visto come di primo impatto, che bello, cala la disoccupazione giovanile ai minimi dall'ottobre del 2012. Però poi, se vai a guardare dentro, questo calo della disoccupazione giovanile della Ringa si verifica perché sono aumentati di 82.000 gli inattivi, che sono soprattutto i giovani. E allora ti credo, tu non cerchi neanche più il lavoro, non risulti più disoccupato, ma in realtà il lavoro non ce l'hai comunque, anche se statisticamente risulti inattivo e non disoccupato. Allora, altri dati: diminuiscono i lavoratori dipendenti, meno 39.000, stabili gli autonomi, scendono di 37.000 disoccupati, appunto, ma perché aumentano di 82.000 gli inattivi. A ottobre meno 30.000 occupati. Resta positivo il confronto su base annua, cioè su ottobre del 2015, con 174.000 occupati in più. Ma, ed è l'ultima domanda che ho per lei, quello che notiamo, sono aumentati gli occupati negli over 50, rispetto a un anno fa sono 376.000 in più, mentre sono calati gli occupati nella fascia 35-49 anni, 126.000, e anche nella fascia 25-34, meno 97.000. Poi ci sono 21.000 occupati in più che hanno meno di 24 anni. Letti così questi dati, sembrerebbero dire che, al di là del dato aggregato, professore, c'è uno spostamento dell'occupazione verso la fascia di età un po' più alta, over 50 soprattutto. È un po' così, un po' è che la popolazione, stiamo invecchiando come popolazione. Sì, ma non da un mese all'altro. Oddio, c'è chi invecchia da un mese all'altro. No, questo è però è quello degli anziani sopra i 50, dall'aumento dell'occupazione in un anno ha fatto più 376.000. È chiaro che è dovuto senz'altro alle riforme delle pensioni che fanno sì che la gente stia più attiva e quindi occupata, ma infatti c'è molta più popolazione, infatti sta diminuendo quella giovane ed è questo il motivo per cui alla fine tutto sommato sui giovani, diciamo così, c'è meno crisi in questi mesi, la crisi si concentra nell'età di mezzo. E le età più anziane certamente rimangono al lavoro perché devono rimanere al lavoro perché la pensione si è allontanata. Ma anche c'è questo effetto di popolazione che dobbiamo stare attenti. Ma in un anno certamente entrano delle classi di giovani sempre più povere e mentre dopo i 50 anni entrano delle classi di anziani sempre più ricche. E questo è un effetto che ha qualche rilevanza. E fa sì che appunto sono i due estremi che un po' si salvano, perché anche i giovani, nonostante l'aumento della inattività, nel corso di un anno l'occupazione si è comportata abbastanza bene e quindi la disoccupazione è diminuita. Quello che è in sofferenza è l'età centrale, come se fosse il ceto medio dell'occupazione. Io penso che questo sia un riflesso delle crisi di questi anni, delle crisi aziendali, delle ristrutturazioni. Quindi sono i posti di lavoro un po' più pesanti dal punto di vista anche del ruolo familiare di queste persone. E queste naturalmente sono in sofferenza. E sono in sofferenza e talvolta anche la manifestano questa sofferenza. Ed è questo nocciolo duro che deve essere ancora attaccato fino in fondo. E che rappresenta il cuore della disoccupazione. Però per ricollegarci al tema precedente, lo aggredisci, al di là della riforma del mercato del lavoro e degli incentivi che poi sono comunque una tantum, lo aggredisci solo se l'economia cresce vicino al 2%, basterebbe anche l'1,5%, se no non ce la fai solo con le riforme, con gli incentivi. Grazie anche al professor Carlo Della Ringa. Un ultimo dato prima di chiudere: è appena uscito il mercato auto Italia a novembre, più 8,20%, che porta le immatricolazioni di auto in questo paese al 16% in più negli 11 mesi. Quindi gennaio-novembre, Fiat fa meglio anche questo mese del mercato, più 10,5%, la quota Fiat del gruppo Fiat sale al 28,3%, e le immatricolazioni nei primi 11 mesi per il gruppo Fiat sono state il 18,70%, più 18,70%, e quindi anche qui un po' meglio del mercato, che ha fatto appunto più 16,5%. È tutto, un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni, ci risentiamo domani dalle 17 in poi per la nostra classifica è per l'ultima puntata prima del 4 e anche del 5 di dicembre. A domani. Radio 24. Libera la voglia di fare.